passione. Ti scrivo, cara mamma, domani c'è l'azione e la brigata nera noi la faremo morire. 1, 2, 3, 4. Dai monti di Sant'Anna, punti discenderemo, allerta partigiani del battaglion Lucetti, il battaglion Lucetti, son libertà e nulla più, coraggio è sempre avanti, la morte nulla più. Bom bom bom, battano i cannoni dai monti sardanesi, allerta partigiani del battaglion Lucetti, più forte sarà il grido che salirà lassù. Venerio, Pietro, Gori, noi scenderemo giù. Thank you.